ayer babadari. Italiano bacitu, arrak ayer babadari. Ey basta, ey basta, ey basta. Italiano bacitu, arrak ayer babadari. Ey basta. Yer babadari. Ey bato sotto sole.